C'era una volta il ragionier Bianchi di Varese. Era un rappresentante di commercio e 6 giorni su 7 girava l'Italia intera, a est, a ovest, a sud, a nord e in mezzo, vendendo medicinali. La domenica tornava a casa sua e il lunedì mattina ripartiva. Ma prima che partisse la sua bambina gli diceva: «Mi raccomando, papà, tutte le sere una storia». Perché quella bambina non poteva dormire senza una storia. E la mamma, quelle che sapeva, gliele aveva già raccontate tutte, anche 3 volte. Così, ogni sera, dovunque si trovasse alle 9 in punto, il ragionier Bianchi chiamava al telefono Varese e raccontava una storia alla sua bambina. Alice Cascherina. Questa è la storia di Alice Cascherina, che cascava sempre e dappertutto. Il nonno la cercava per portarla ai giardini. «Alice! Alice! Dove sei?» «Sono qui, nonno!» «Ma dove qui?» «Nella sveglia!» «Sì, sì, sì, aveva aperto lo sportello della sveglia per curiosare un po' ed era finita tra gli ingranaggi e le molle. Ed ora le toccava di saltare continuamente da un punto all'altro per non essere travolta da tutti quei meccanismi che scattavano facendo tic-tac. Un'altra volta il nonno la cercava per darle la merenda. «Alice! Dove sei? Alice!» «Sono qui, nonno!» «Ma dove qui?» «Ma proprio qui, nella bottiglia! Avevo sete! Ci sono cascata dentro!» Ed eccola là, che nuotava affannosamente per tenersi a galla. Fortuna che l'estate prima, a Sperlonga, aveva imparato a fare la rana. «Aspetta, aspetta che ti ripesco!» Il nonno calò una cordicina dentro la bottiglia, Alice vi si aggrappò e vi si arrampicò con destrezza. Era brava in ginnastica. Un'altra volta ancora, Alice era scomparsa. La cercava il nonno, la cercava la nonna, la cercava una vicina che veniva sempre a leggere il giornale del nonno per risparmiare 40 lire. «Guai a noi se non la troviamo prima che tornino dal lavoro i suoi genitori!» mormorava la nonna spaventata. «Alice! Alice! Dove sei? Alice!» Stavolta non rispondeva. Non poteva rispondere. Nel curiosare in cucina era caduta nel cassetto delle tovaglie e dei tovaglioli e ci si era addormentata. Qualcuno aveva chiuso il cassetto senza badare a lei. Quando si svegliò, Alice si trovò al buio. Ma non ebbe paura. Una volta era caduta in un rubinetto. E là dentro sì che faceva buio. «Dovranno pur preparare la tavola per la cena», rifletteva Alice. «E allora apriranno il cassetto». E invece nessuno pensava alla cena. Proprio perché non si trovava Alice. I suoi genitori erano tornati dal lavoro e sgridavano i nonni: «Ecco come la tenete d'occhio!» «I nostri figli non cascavano dentro i rubinetti», protestavano i nonni. «Ai nostri tempi cascavano soltanto dal letto e si facevano qualche vernocolo in testa». Finalmente Alice si stancò di aspettare. Scavò tra le tovaglie, trovò il fondo del cassetto e cominciò a batterci sopra con un piede. Tum, tum, tum! «Zitti tutti!» disse il babbo. «Sento battere da qualche parte!» «Tum, tum, tum!» chiamava Alice. «Che abbracci! Che abbracci! Che baci! Che baci! Quando la ritrovarono!» «Quando la ritrovarono!» E Alice ne approfittò subito per cascare nel taschino della giacca di papà. E quando la tirarono fuori, aveva fatto in tempo a impiastricciarsi tutta la faccia, giocando con la penna sfera. Con la penna sfera.